Come on, be inspired. Sii ispirato da te stesso. By your own greatness. Dalla tua grandezza. Be moved by the Spirit. Sii commosso e mosso dallo Spirito che c'è dentro di te. To emulate the divine. Emulare il divino significa essere divino. A diventare consapevole dello spazio che i tuoi occhi occupano nello spazio. E riesci a sentire the volume of space. Il volume dello spazio that your eyes are in cui si trovano i tuoi occhi nello spazio. Riesci a percepire lo spazio tra your forehead, la tua fronte and the back of your head, e la parte posteriore della testa nello spazio. Riesci a sentire the energy of space, l'energia dello spazio inside your head, nell'interno della tua testa, in space, nello spazio. Riesci a percepire the space, lo spazio beyond, oltre your temples, le tue tempie space, nello spazio. And can you feel, e riesci a sentire the energy of space, l'energia dello spazio intorno alla testa, nello spazio. A diventare consapevole dello spazio sotto il tuo mento, nello spazio. E riesci a sentire l'energia dello spazio oltre Your throat. La gola. In space. Nello spazio. Riesci a posizionare la tua consapevolezza nello spazio tra il tuo cuore e la tua spina dorsale nello spazio. E riesci a sentire il volume dello spazio tra il tuo cuore e la tua colonna vertebrale nello spazio. Riesci a diventare consapevole of the space dello spazio dietro your spine in la space. Colonna vertebrale nello spazio. And can you feel e riesci a sentire the energy of space. L'energia dello spazio oltre la colonna vertebrale nello spazio. Riesci a diventare consapevole of the space dello spazio under your arm, sotto le tue braccia in space. Nello spazio. And can you e riesci a percepire the area of space lo spazio your arms. Sotto le tue braccia. In space. Nello spazio. L'energia dello spazio around intorno your hands alle tue mani in space. Nello spazio. And can you e riesci a percepire il volume dello spazio beyond oltre your hands spazio. Notare lo spazio intorno alle anche nello spazio. E riesci a sentire l'energia dello spazio intorno alle tue anche nello spazio. Diventare consapevole dello spazio tra le ginocchia nello spazio. E riesci a sentire l'energia dello spazio tra le gambe nello spazio. Percepire lo spazio under your feet, sotto i tuoi piedi in space, nello spazio. And can you e riesci a sentire the energy of space, l'energia dello spazio oltre your feet, i tuoi piedi in space. Questa sala in space, nello spazio. percepire the space, lo spazio beyond, oltre this room, questa sala, in space, nello spazio. Il momento di diventare nessun corpo, nessuna cosa, nessun tempo. Di diventare pura coscienza. E investire la tua consapevolezza nell'ignoto. E più rimani nell'ignoto, nel potenziale, in possibility, nella possibilità, the more you draw, e più attiri new experiences, nuove esperienze verso di te. And if you find your mind, e se vedi che la tua mente observing the familiar, osserva ciò che è familiare, the known, ciò che è noto, the past and the future, il passato o il futuro, the body, il corpo, in time, il tempo, simply return back to, basterà che torni al presente and unfold, e libera all possibilities. Liberati nel vuoto di tutte le possibilità. Stay present. Rimani presente. era quella prima credenza che volevate cambiare di voi nella vostra vita? E vuoi davvero continuare a credere e a percepire in questo modo? E quando sei pronto, voglio che tu prenda una decisione con un'intenzione così ferma, così salda, che la scelta diventa un'esperienza che non dimenticherai mai. E permetti al tuo corpo di rispondere a una nuova mente. Permetti all'energia di quella scelta di avere un'ampiezza tale per cui sia in grado di riscrivere il programma. Arrendi quella credenza a una mente più grande e permetti a lei di risolverla in un modo che sia giusto per te. Che cosa vuoi credere? Che cosa vuoi percepire in merito a te stesso e alla tua vita? E come questo ti fa sentire? Forza, sii mosso dallo spirito e crea un'esperienza per te. Un'esperienza che abbia un'emozione, che ti porti in un nuovo stato di essere e permetti al tuo corpo di rispondere a una nuova mente. Se credessi in questo modo, come sarebbe? Stato dell'essere. abbandona quella credenza into the field, al campo. Planting a seed in fertile, pianta un seme in un terreno fertile. And allow a greater mind, e permetti a una mente più grande di eseguire tutto questo in un modo in your life, nella tua vita, that reflects this, e in un modo che rifletta questa nuova credenza. Quella seconda credenza o percezione che volevi cambiare in merito a te o alla tua vita. E vuoi continuare a credere e a percepire in questo modo? Se non vuoi continuare così, allora è il momento di prendere una decisione. E devi essere mosso dallo Spirito. Per cui la scelta che fai avrà un'ampiezza energetica maggiore del programma inciso nel cervello e sarà più grande delle dipendenze emotive nel tuo corpo, e permetti al tuo cervello e al tuo corpo di rispondere, di reagire a una nuova mente. Permetti alla finalità, alla determinatezza di questa scelta di essere un'esperienza che non dimenticherai mai. Quella credenza a una mente superiore e chiedi che si risolva in saggezza. Cosa vuoi credere, cosa vuoi percepire su di te nella tua vita e come ti sentiresti? È arrivato il momento di passare a un nuovo stato dell'essere. E fai una scelta con un'intenzione così forte che la scelta diventa un'esperienza che non dimenticherai mai. Da questo momento in poi il tuo cervello e il tuo corpo rispondono a una nuova mente. Thank you. questo nuovo stato dell'essere. And how would it feel? E anche come ti fa sentire, come ti sentiresti ad essere allineato con questa credenza. Presenterebbe la tua vita vivendo in questo modo, credendo e percependo in questa verità. Ricorda te stesso ancora una volta qual è questa credenza. E ora abbandonala a una mente più grande. E permetti che sia lei a organizzare la tua realtà in modo che rifletta questa nuova credenza. Cos'è la divinità? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente a essere mosso dallo spirito? Come ci si sentirebbe? Cos'è l'ispirazione? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente a essere mossi verso un maggior potere? Come ci si sente ad avere più potere? Cos'è il coraggio? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente a essere senza paure? Come ci si sentirebbe a essere così? E che cos'è la forza? Can you Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente a essere invincibili. Come ci si sentirebbe a essere invincibili? What is genius? E che cos'è il genio? Can you teach your body? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente ad avere una mente illimitata? Cosa sarebbe, come ci si sentirebbe? Cos'è l'abbondanza? Can you teach your body? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente ad avere tutti i desideri soddisfatti? Come ci si sentirebbe ad avere l'abbondanza? What is honor? E che cos'è l'onore? Can you teach your body? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente to be noble? A essere nobili. What does nobility feel like? Come ci si sente a essere nella nobiltà? E che cos'è la vitalità? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente ad avere un'energia illimitata? Come ci si sentirebbe a essere così? Che cos'è il mistico? The mind of the saint. La mente del santo. The miraculous. Il miracoloso. Can you teach your body? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente ad aspettarsi l'incomune, la cosa diversa? Come ci si sentirebbe? What is greatness? E che cos'è la grandezza? Can you teach your body? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente to be in love with a essere innamorati della vita? Come ci si sentirebbe essere così? What is trust? E che cos'è la fiducia? Riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente a credere nell'ignoto? Come ci si sentirebbe a essere così? Cos'è la libertà? Can you teach your riesci a insegnare al tuo corpo come ci si sente a essere liberati dal passato e a rilassarsi nel presente, come ci si potrebbe sentire? Mano sinistra e mettila sul cuore. E voglio che benedici il tuo corpo con una nuova energia. Amalo nella vita, in modo che si sollevi verso una nuova coscienza. E benedici la tua vita perché è un'estensione della tua mente. E benedici il tuo passato. Let it no longer be your future. E fai in modo che non sia più il tuo futuro. Benedici le sfide che hai avuto nella tua vita, perché si trasformano in saggezza. Benedici la tua anima dentro di te, perché è un fuoco che ti risveglia. Benedici il divino, così che si avvicini di più a te. That it stirs in you. Così che ti muova dentro. That it moves in you. Così che si muova dentro di te. That it moves through you. Che si muova attraverso di te. And that it moves all around you. E che si muova tutto intorno a te. And that you invite it into your life. E che tu venga invitato nella tua vita per dimostrare che tutto questo è reale. Pensiero manda fuori il segnale e il sentimento manderà l'evento verso di te. Voglio che vi spostiate in un sentimento di gratitudine. Forza, apri il tuo cuore e permetti al tuo corpo di ringraziare per la vita, di ringraziare dell'opportunità di creare. E di ringraziare per un nuovo futuro, ancora prima di averne l'esperienza. E più rimani nello stato di gratitudine, e più attiri verso di te la nuova vita, perché la gratitudine altro non è che il fatto già successo. It is the ultimate state. È lo stato più elevato in cui si riceve. Forza, sentilo. Be blessed. Sii benedetto dalla tua stessa coscienza. We are gods in the flesh. Siamo Dio nella carne. We are creators of reality. Siamo creatori della realtà. Ecco cosa siamo. Your observations become matter. Le tue osservazioni diventano materia. Thoughts are things. I pensieri sono cose. Wheresoever you put your attention. Quindi ovunque tu metta la tua attenzione, è lì che metti la tua energia. Now bring your awareness. Ora porta la tua consapevolezza in un nuovo corpo. To a new environment, in un nuovo ambiente, in a whole new line of time, in una nuova linea del tempo. And when you're ready, e quando sei pronto, you can open your eyes. Puoi aprire gli occhi.